Nozze, capitolo decimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, dicembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo decimo, nozze. Dava moglie la rana al suo figliolo. Or con la pace vostra, o raganelle, il suon lo chiese ad un cantor del brolo. Egli cantò, la cobbola giuliva parve un picchierellar trito di stelle nel ciel di sera che ne tintinniva. Le campagne addolcì quel tintinnio e i neri boschi fumiganti d'oro. Tio tio tio tio tio tio tio tio, toro toro toro toro tix, toro toro toro toro lili lili lix. È notte, ancora in un albor di neve sale quest'inno come uno zampillo. Quando la rana chiede quanto deve, se quattro chioccioline o qualche foglia d'appio, o voglia un mazzuolo di serpillo, o voglia un paio di bachi, o ciò che voglia. Oh, risposegli, nulla al rosignolo, nulla tu devi delle sue cantate, ei l'ha per nulla e dà per nulla. Solo sì l'ascoltate e poi non gracidate. Al lume della luna ogni ranocchia gracidò. Quanta spocchia, quanta spocchia! Fine del capitolo decimo.